Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Ambrosio si rintanò per qualche giorno come una belva, disgustato di sé e angosciato dal timore di essere scoperto. L'immagine di donna Elvira, immobile e furente sulla porta della stanza di Antonia, addormentata sul ramo di mirto stregato, lo perseguitava. Tuttavia, poiché il tempo passava senza che nessun sospetto cadesse su di lui, cominciò ad abituarsi alle trafitture dei suoi rimorsi. Matilde, da parte sua, faceva il possibile perché si riprendesse. Alla notizia della morte di Elvira, parve molto colpita e si rammaricò con lui del tremendo esito del suo tentativo notturno, ma quando le sembrò che Ambrosio si fosse sufficientemente calmato, insinuò che non aveva fatto altro che valersi del diritto che la natura ci accorda per la nostra sopravvivenza personale, che tra lui e Elvira bisognava che qualcuno perisse. Aggiunse ancora che dal momento che si era reso sospetto a Elvira, era una vera fortuna che la morte le avesse chiuso la bocca. Uccidendola, si era sbarazzato di una nemica che conosceva abbastanza le sue irregolarità per poter diventare pericolosa, e nello stesso tempo aveva tolto di mezzo l'ostacolo principale alle sue mire su Antonia. E queste mire essa lo incitò a non abbandonarle. Gli fece capire che ora che non c'era più l'occhio vigile della madre a sorvegliarla, la figlia diventava una facile conquista, e a forza di descrivergli ed elencargli le bellezze di Antonia riuscì a portare i desideri del monaco al punto che voleva, come se i delitti che la sua passione gli aveva fatto commettere non avessero fatto che esasperarne la violenza. Ambrosio era ancora più impaziente di approfittare di Antonia. Era riuscito a dissimulare il suo primo delitto e non dubitava che vi sarebbe riuscito ugualmente con il secondo. Non aspettava che un'occasione favorevole per rinnovare il suo tentativo, ma questa volta non poteva più servirsi del mirto magico. L'aveva spezzato durante le sue prime crisi di disperazione, e Matilde gli tolse ogni illusione di poter ricorrere ancora all'aiuto delle potenze infernali, a meno che non fosse deciso ad accettare le loro condizioni. E Ambrosio non voleva neppure pensarci. Era persuaso che, per quanto grande fosse la sua colpa, finché avesse conservato una possibilità di redenzione, non avrebbe dovuto disperare del perdono. Rifiutò perciò decisamente di firmare un patto con gli spiriti malvagi, e Matilde, vista la sua ostinazione, non insisté. Doveva trovare il mezzo di mettere Antonia nelle mani del monaco in modo abbastanza naturale perché egli non avesse scrupoli. «Antonia», gli bisbigliò, «sarà vostra, e non per una notte, ma per sempre. E tutta la sorveglianza della sua governante Flora e di Giacinta non potrà impedirvi di far l'amore con lei in tutta libertà, ma dovete fin d'ora mettervi al lavoro. La fanciulla ieri ha avuto una allucinazione. Il fantasma di Donna Elvira le ha predetto la morte. Il tempo stringe. Il nipote del duca di Medina Celi è pronto a chiedere la mano di Antonia, e fra pochi giorni la ragazza sarà condotta nel palazzo del marchese dell'Asi Ternas. Allora non potrete più nulla contro di lei. Queste sono le ultime notizie fornitemi dalle mie invisibili spie. Ora statemi bene a sentire. Esiste un liquore, distillato da certe erbe poco conosciute, che fa cadere chi lo beve in una morte apparente. Fate in modo che Antonia lo beva. Troverete il modo di lasciarne cadere qualche goccia nella sua medicina subito dopo. La ragazza sarà colta per un'ora o due da violente convulsioni, e a poco, il sangue cesserà di circolarle nelle vene e il suo cuore si arresterà. Un pallore mortale le si diffonderà allora sul volto e per tutti non sarà più che un cadavere. Antonia non ha amici e senza destare sospetti potrete occuparvi voi stesso dei suoi funerali e farla seppellire nei sotterranei di Santa Chiara. Sarà il luogo ideale per soddisfare i vostri desideri. All'idea che Antonia sarebbe stata sua e che avrebbe potuto approfittare di lei senza essere disturbato, Ambrosio si sentì come ubriaco e mentre si abbandonava all'allegria più smodata non vide nel suo accecamento lo strano sguardo che Matilde gli fissava addosso. «Potrò squinzagliare i miei sensi e sentirmi morire sulla pelle tutti i desideri che sono costretto a ricacciarmi dentro da tanto tempo. Matilde, come posso ringraziarvi?» «Seguendo i miei consigli, Ambrosio. Non vivo più che per esservi utile e il mio solo piacere è di contribuire al vostro. Ma il tempo stringe e il liquore di cui vi parlo si trova nel laboratorio di Santa Chiara. Andate dalla badessa e con un pretesto qualsiasi chiedetele di farvi entrare nel laboratorio. Non ve lo rifiuterà. In fondo alla sala più grande si trova un armadietto pieno di liquidi di diversi colori e che servono per scopi differenti. La bottiglia di cui vi parlo sta da sola nella terza scansia a sinistra e contiene un liquido verdastro. Riempitene una fialetta senza farvi vedere e Antonia è vostra.» Il monaco non esitò neanche un secondo davanti all'infame proposta e subito dopo l'uffizio del mattino era già al monastero di Santa Chiara. L'annuncio del suo arrivo si propagò fra le suore come una nuvolaglia di polvere sotto il vento. Era la prima volta che il priore usciva apertamente dal suo ritiro e tutto il monastero fu di colpo in subbuglio. La badessa fece gli onori di casa con tutta la pompa prescritta dal cerimoniale. Non gli fu risparmiato nessun particolare e dovette baciare un considerevole numero di reliquie, pelli d'uomo, ossa di santi e altri rimasugli più o meno consacrati. Raggiunse finalmente il laboratorio, dove, col pretesto di voler esorcizzare certe fiale demoniache, domandò di essere lasciato solo. Trovata la bottiglia fatale, riempì una fiala e dopo aver preso parte a uno spuntino nel refettorio se ne andò al monastero, lasciando tutte le monache raggianti per la sua visita. Annottava quando raggiunse la casa di Antonia. Il medico si stava dando da fare al capezzale dell'inferma e, dato che la camera stava annegando nell'oscurità, chiese un lume. Flora, rassicurata dalla presenza del medico fra Antonia e il monaco, scese in fretta a cercarne uno. Ad Ambrosio bastarono pochi secondi. La governante non aveva fatto in tempo a passare la soglia che si precipitò verso il tavolino sul quale si trovava la medicina di Antonia. Il medico, proprio in quel momento, gli voltava le spalle e Ambrosio poté estrarre dalla tonaca, senza essere visto, la sua fialetta e versarne il contenuto nella tisana calmante. Poi si affrettò ad allontanarsi dal tavolo e Flora, rientrando, ebbe l'impressione di trovare tutto come l'aveva lasciato. Poco dopo il medico prese congedo annunciando che Antonia era fuori pericolo e non aveva più bisogno delle sue cure e, uscendo, ricordò alla governante di farle prendere la medicina che la notte prima le aveva già procurato un sonno ristoratore. Non appena se ne fu andato, Flora versò la medicina in una tazza e la porse ad Antonia. Il monaco, in quell'istante, sentì un colpo al cuore. E se Matilde l'avesse ingannato? La gelosia poteva averla spinta a sbarazzarsi della rivale facendo passare per narcotico un veleno. Questo sospetto lo rimescolò tanto che fu sul punto di impedire ad Antonia di bere la medicina, ma sfortunatamente si decise troppo tardi. Ormai la tazza era stata vuotata e occhieggiava cupa tra le mani di Flora. Non gli restava altro da fare che aspettare, con l'impazienza che si può immaginare, l'istante che avrebbe deciso della vita o della morte della sua ipotetica amante e insieme della sua felicità o disperazione. Temendo che la sua agitazione potesse essere notata se avesse prolungato la visita oltre misura, prese congedo dalla vittima ignara e uscì dalla stanza in attesa che il medico e Flora tornassero ai propri uffici per lasciarlo, secondo le intenzioni, a pregare per Antonia. Ambrosio, una volta solo, poggiò il lume sul tavolo, tirò il catenaccio e si sedette nella poltrona dove Antonia il giorno prima aveva avuto la sua allucinazione. Per quanto corazzato fosse contro la paura, il misterioso orrore della camera gli si appiccicò addosso. A ogni momento sembrava che un sordo gemito corresse lungo la boiserie. Il ricordo dell'assassinio di Elvira, l'incertezza sulla natura della bevanda che aveva propinato ad Antonia, tutto contribuiva a sprofondarlo in una tetraggine senza scampo. Un'idea soprattutto l'atterriva, che senza volerlo fosse stato lui stesso l'esecutore del destino e che, pur conoscendo la predizione del fantasma, non avesse temuto in queste condizioni di versare il narcotico nella medicina di Antonia. Se fosse morta, proprio lui ne sarebbe stato la causa e avrebbe così distrutto con le sue mani il solo essere che poteva ancora fargli amare la vita, anticipando perfino i termini stabiliti dal fato. In preda alle più nere considerazioni, cercò di scrollarsele di dosso senza riuscirci. Matilde gli aveva assicurato che gli effetti della droga sarebbero stati rapidi e Ambrosio tendeva incessantemente l'orecchio, aspettandosi che da un momento all'altro un urlo o un rantolo atroce gli annunciassero che l'agonia era cominciata. La posta in gioco era alta. Un solo istante sarebbe stato sufficiente perché le porte del paradiso gli si spalancassero davanti o gli fossero chiuse per sempre. Incapace di sopportare questa incertezza, si guardò intorno. Le costole rilegate dei libri scintillavano nella penombra e, sperando di trovarvi un diversivo ai suoi pensieri, prese a caso un volume e si sedette al tavolino. Ma la sua mente era lontana dalle pagine che aveva sotto gli occhi e a ogni istante i cadaveri bluastri di Elvira e di Antonia gli si drizzavano insieme davanti. Cercò di leggere, ma gli occhi scorrevano i caratteri senza che la sua mente riuscisse ad afferrarne il senso. Si trovava in questo stato quando gli parve di sentire dei passi. Voltò la faccia, ma non vide nulla. Qualche secondo dopo, lo stesso rumore si ripeté, seguito da un impercettibile fruscio alle sue spalle. Ambrosio scattò in piedi e si guardò intorno. La porta dello stanzino, che aveva lasciata chiusa e sprangata, era aperta. «Che vuol dire?» pensò. «Com'è possibile che questa porta si sia aperta?» Fece qualche passo, spalancò interamente il battente e sbirciò nello stanzino. Era vuoto. Per un attimo restò indeciso e stava per tornare al suo posto quando credette di udire un lamento nella camera accanto. «Forse», rimuginò, «la fiala cominciava a fare effetto e Antonia era entrata nell'orrore dell'agonia». ascoltando più attentamente, si rese conto che il rumore proveniva da Giacinta, che si era addormentata accanto al letto della malata e russava come un mantice crepato. Fece una mezza giravolta ed entrò nell'altra stanza per scoprire come aveva fatto la porta ad aprirsi da sola. Attraversò la camera, facendo il meno rumore possibile, e si fermò proprio davanti al letto. Le cortine dell'alcova erano tirate a metà e la vista del letto lo mise di cattivo umore. Questo era il letto di Elvira. Farfugliò. Deve avervi passato molte notti tranquille, perché era una donna onesta. Come doveva essere profondo il suo sonno, e ora lo è ancora di più. Dorme veramente. Dio lo voglia. Perché che farei altrimenti? Se uscisse a un tratto dalla tomba, se spezzasse la legge della morte e si levasse corrucciata in faccia a me, non potrei sopportarlo. Vederla nello stato in cui l'ho ridotta. Livida, piegata in due, con le vene rotte, la faccia gonfia, piena di segni, di percosse, sentirla che mi minaccia la vendetta del cielo, che mi rinfaccia i delitti che già mi pesano sull'anima e quelli che sto per commettere e dei quali il suo sguardo di morte misura tutto l'orrore. Gran Dio! Che avviene? Con gli occhi che gli schizzavano fuori dalle orbite, vide le cortine del letto aprirsi e richiudersi. Gli tornò in mente il fantasma di cui gli aveva parlato Matilde e pensò che i suoi timori stavano per realizzarsi. Un momento di riflessione bastò a calmarlo. «È soltanto il vento», si disse riprendendo coraggio, e si mise a camminare a grandi passi su e giù per la camera, ma sentiva sempre alle sue spalle la presenza della cortina che continuava a muoversi. Si decise allora a tornare verso l'alcova, ma si arrestò prima di aver salito i pochi scalini che vi conducevano. Per tre volte tese la mano per scostare le cortine e per tre volte la ritrasse. «Che assurde paure!» esclamò alla fine, vergognandosi della propria debolezza. Ma mentre stava per slanciarsi, una figura tutta vestita di bianco sbucò fuori di corsa dall'alcova e si precipitò verso lo stanzino. Una specie di furore, in cui la disperazione si mischiava alla paura, si impadronì a questo punto del monaco. Saltò gli scalini, rincorse l'apparizione e cercò di afferrarla. «Ombra o demonio? Ti tengo!» gridò, tirando lo spettro per un braccio. «Gesù Cristo!» gracchiò una voce nasale. «Lasciatemi, Padre Santo, vi giuro che non ho cattive intenzioni!» Immediatamente la paura del monaco si dileguò. Si rese conto che si trattava di una donna. La trascinò verso il tavolo e, puntandole in faccia la lampada, riconobbe Flora. Rabbioso per essere stato terrorizzato da una causa tanto ridicola, fece la voce grossa e domandò a Flora con il tono più severo che cosa fosse venuta a fare in quella camera. La governante, impressionata, si buttò in ginocchio e cominciò, piagnucolando, la sua confessione. «Vi assicuro, reverendo padre, che non cercavo di disturbarvi. Ero venuta per spiarvi, l'ammetto. Ma speravo di potermene andare senza che la mia presenza fosse notata. Vogliate scusare, signore, la curiosità di una vecchia? Tutto quel che riguarda gli spiriti e gli esorcismi mi interessa enormemente. E non ho potuto fare a meno di cercare di scoprire che cosa facevate. Per cominciare, ho cercato di guardare dal buco della serratura, ma c'era troppo buio nella camera e ho pensato che la cosa migliore fosse di nascondermi dentro al letto e di farmi passare per un fantasma. Mentre mi volgevate le spalle, sono scivolata nell'alcova e mi sono rannicchiata dietro le tende e contavo di andarmene protetta dal mio travestimento e dalla paura che vi avrebbe ispirato quando mi avete afferrata. Questa è tutta la verità, Padre Santo, e vi chiedo mille volte perdono della mia impertinenza». Mentre Flora parlava, il priore aveva avuto il tempo di riprendersi e di dissimulare a Flora i suoi timori. La donna si era appena avviata verso la camera di Antonia, tutta umile e contrita, quando la porta dello stanzino si spalancò bruscamente ed entrò Giacinta, pallida e fuori di sé. «Padre! Padre mio!» riuscì ad articolare, mezza soffocata dal terrore. «Che devo fare? Un'altra disgrazia mi casca sulla testa. Dopo gli spettri, ora sono i vivi che diventano morti. Diventerò pazza!» Il monaco si rese conto che il momento era arrivato. Il sangue gli si gelò nelle vene e trovò appena il fiato per formulare queste parole. «Parlate! Che è successo?» L'irruzione di Giacinta aveva restituito a Flora la sua sicurezza. Comprese immediatamente da dove veniva il pericolo e lanciò al monaco un'occhiata sospettosa, ma i sentimenti che si accavallavano in lei erano troppo violenti e troppo confusi perché riuscisse ad aprir bocca. «Una strega deve aver gettato il malocchio su di me e su tutto quello che mi circonda. Avrò ancora un cadavere nella mia casa. Povera donna Antonia. L'hanno presa le stesse convulsioni che hanno spacciato sua madre. Il fantasma aveva detto la verità, sono sicura. Che il fantasma aveva detto la verità!» A queste parole Flora prese lo slancio ed entrò come una raffica di vento nella camera della sua padrona. Ambrosio la seguì con le gambe che traballavano. Trovarono Antonia nello stato che Giacinta aveva descritto, agitata da atroci convulsioni che le mozzavano il respiro. Il monaco spedì di corsa Giacinta al convento per chiamare padre Pablos e la vecchia, dopo aver sbrigato l'incarico, non fece altro che piombare in gran furia in casa del vecchio Simone Gonzales, decisa a non lasciarlo finché non avesse consentito a sposarla e a dividere con lei la sua casa. Padre Pablos arrivò senza perdere tempo, ma non appena ebbe veduto Antonia, la giudicò condannata e lo disse. Le convulsioni durarono circa un'ora. Poi gli accessi divennero sempre meno frequenti. Il respiro le morì sulle labbra e fu con una voce ormai smorzata che si confessò ad Ambrosio. «Ambrosio», gli disse, «ora posso dirvi, col cuore leggero, quanto vi sia riconoscente della vostra bontà. Tra un'ora non sarò più e posso dunque confessarvi senza altre riserve quanto soffrissi di non potervi rivedere, ma era un ordine di mia madre e non osavo disobbedirle. Un giorno ci rincontreremo in cielo e la nostra amicizia ricomincerà, questa volta con la benedizione di mia madre. Alla mia morte fate sapere al marchese della Citernas che la sfortunata famiglia di suo fratello non l'importunerà più. Ditegli soltanto, padre, che sono morta e che se ha commesso qualche torto nei miei confronti, lo perdono dal profondo del cuore. Non mi resta ora che chiedere le vostre preghiere. Promettetemi di seguire le mie raccomandazioni e lascerò la vita senza rimpianti e senza dolore». Ambrosio promise e le impartì l'assoluzione. Ormai la morte era vicina. La chiarezza del suo sguardo parve ancora impallidire e tuttavia lo teneva fisso davanti a sé e presto l'immobilità delle sue pupille rivelò che la forma degli oggetti aveva cessato di impressionare la sua mente. Il cuore rallentò i battiti, le dita si irrigidirono e gelarono e alle 2 del mattino spirò senza un lamento. Subito dopo, padre Pablos lasciò la casa, sconvolto da quel che aveva appena veduto. Il dolore di Flora non fu discreto, e i suoi singhiozzi furono il segnale di un ammutinamento dato alla strada. Delle finestre si aprirono, delle teste apparvero. Sentendo che il momento era venuto, Ambrosio cercò i polsi della sua vittima, trovatili, li strinse e li sentì pulsare sotto le sue dita. Di colpo fu invaso dall'ebbrezza, ma assunse l'aria desolata che conveniva alle circostanze e invitò Flora a non abbandonarsi a un inutile dolore. La disperazione della governante era però troppo sincera perché potesse piegarsi ai suoi consigli e Flora continuò a piangere amaramente. Il monaco si congedò dopo aver promesso di occuparsi lui stesso delle esequie che aggiunse in tono paterno e ipocrita. Per considerazione verso Giacinta dovevano aver luogo il più presto possibile. Sprofondata nel suo dolore, Flora fece appena attenzione a quel che diceva. Ambrosio si affrettò a dar disposizioni per la sepoltura. Ottenne dalla badessa il permesso di far calare il cadavere nel sotterraneo di Santa Chiara e la mattina del venerdì, sbrigate tutte le formalità necessarie, il corpo di Antonia fu deposto nella tomba. Proprio allora arrivò Leonella con una specie di spaventapasseri che aveva l'intenzione di presentare a tutti come suo marito. Diverse circostanze avevano ritardato di giorno in giorno il suo viaggio di ritorno e non aveva pensato ad avvertire Elvira. Era una brava donna e aveva sempre avuto a cuore la sorella e la nipote. Quando le dissero che erano entrambe morte all'improvviso, il suo dolore fu perlomeno uguale alla sorpresa. Ambrosio la mise al corrente delle ultime volontà di Antonia e le promise, dietro sua richiesta, che non appena i piccoli debiti che Elvira aveva lasciato fossero stati pagati, le avrebbe mandato il denaro rimasto. Sbrigato quest'affare, Leonella si affrettò a lasciare Madrid per riguadagnare Cordova a tutta velocità.